quello che vuoi. Ma questa notte ancora guardami, parlami, fammi vivere d'amor. E poi io me ne andrò se tu lo vuoi, o resterò ma così piccolo, piccolo come l'ombra del tuo cuor. Una volta ancora con te, stanotte m'abbandono, poi domani illuso di me ti chiederò perdono. E poi sarà di me quello che vuoi, ma questa notte ancora guardami, parlami, fammi vivere d'amor. E questa sera io vengo a te per farci un'ultima preghiera, che vuoi ancora mi chiedi tu? Io voglio un bacio e nulla più. Quello che vuoi tu.